poi incombono o scompaiono. Se scompaiono, incombono ancor più, ma se incombono a lungo, si può star certi che scompariranno, zitti e piovendo, lesti o lenti, con le vesti immobili, le mani vecchie che si adombreranno, persone vecchie, vecchi nuvoli che a filo il vecchio fumo sanno.